Publish 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera facciamo un salto indietro nel tempo, anzi un viaggio tra passato e presente. Perché la scorsa settimana abbiamo festeggiato i 30 anni di Rio dei Duran Duran. E poi vedi Giulia, l'hanno fatto tutti questa settimana, ma noi siamo arrivate per prime, noi abbiamo dato l'idea. Scherzi a parte, adesso partono degli altri festeggiamenti molto importanti, che sono quelli per i 50 anni dei Rolling Stones. Loro sono sempre molto rock, però hanno attraversato delle fasi diverse. Non voglio anticipare troppo. Rolling Stones 1963. How did you all get together in the first place? I think they all met in clubs in London, jazz clubs. Actually, I answered an advert for a bass player, that's all. But the rest of them got together individually in jazz clubs and formed a sort of a group. How long ago was that? 2 years. And what were you doing when you answered the advertisement? Engineering, actually. And we'll move on now to Brian. Brian, how long have you been with the Rolling Stones? Are you one of the original members? Yes, one of the original members. What were you doing before you joined? Well, just sort of bumming around waiting for something to happen, really. Yeah. I had quite a few jobs and I was trying to get a band going, but it was unsuccessful until I met up with Mick and Keith, and then where you went? That was a successful band. Well, can you think back to your first engagement? Where was that? Marquee, Oxford Street, London. And may I ask how much you got paid for that assignment? 20 quid, which was good because 6 months later we were still working for 10 quid. Eccoli qua, Rolling Stones 1963, quindi erano insieme da poco tempo, però avevano già raggiunto un loro successo tale da essere intervistati dalla televisione. Infatti questo era un video che abbiamo recuperato in rete di una delle loro primissime interviste. Insomma, cosa possiamo dire? Sono dei ragazzini che dicono sì, anche delle cose piuttosto ingenue. Con queste vocine, quasi ancora come se non avessero fatto poi lo scatto da voce adolescenziale a voce da adulto. E comunque spiega: we met in clubs in London, e sicuramente la scena, la scene, che in italiano non si dice scena, ma mi viene da tradurre la scena, quindi la music scene locale di quegli anni deve essere stata vivacissima. Quindi chi aveva voglia di suonare si trovava in questi clubs, specifica jazz clubs, e poi magari nascevano delle affinità. E lui però in particolare, I answered an advert. Advert, una volta si diceva proprio advert, adesso è diventato ad, anche se la parola vera completa per annuncio sarebbe advertisement, che poi vuol dire anche pubblicità in generale, industria della pubblicità. Erano degli studenti, erano proprio dei ragazzini. What were you doing when you answered that advertisement? Engineering, studiavo ingegneria. E poi dice, adesso parliamo un po' con Brian, I will move on to Brian, quindi ora passiamo, to move on vuol dire letteralmente passare anche in inglese, a Brian, e gli chiede, e Brian, insomma, Brian fa subito un po', diciamo, il figo dei tre, dice yes, I was one of the original members, come se la band appunto fosse già, avesse già una sua mega storia, mentre a quel punto aveva una storiellina, però lui si considera già un original member. E poi fa molta tenerezza il Brian Jones ragazzino, e purtroppo sappiamo qual è stata la storia di questo componente dei Rolling Stones, che dice no no, ma adesso guadagniamo bene. Sì, appunto gli dice do you remember your first engagement? Engagement vuol dire fidanzamento, ma vuol dire anche quando qualcuno ti mette sotto contratto per fare anche soltanto un concerto. E quindi yes, I remember, it was at the Marquee, questo locale in Oxford Street. E il giornalista molto cortese gli chiede can I ask you how much you got paid for that assignment, e lui dice 20 pounds, e aggiunge which was good, perché poi dopo un po' siamo scesi a 10 pound. Hanno fatto poi un sacco di soldi. Brian Jones purtroppo è scomparso molto presto. Passiamo a un'altra intervista, 1970, ormai strafamosissimi, e questa è la voce di Mick Jagger alle prese con un'intervista davvero singolare. I didn't like the police and the customs. They put dogs on round our bags to search for things. I didn't. We're only here for a few hours. You know. And they don't. That any. No, nowhere else in the world. But as you know, from the press, they have a picture of you that you use drugs and so. It's not true. We do use drugs. Who said we use drugs? Every paper. Well, that's full of shit, man. We don't use drugs. Do you? Excuse me. Is it true? Is it true that you don't? That you hate pressmen, as you said? No, I like pressmen. You're lovely. I like the television too. In a Stockholm newspaper, they wrote that you said on a press conference that they put stupid questions. Oh, well, yeah, well, everyone has the right to do that, you know. And I have the right to give stupid answers to stupid questions. What's a smart question? What socks do you wear? What colour socks do you like wearing? That's pretty smart. Devo dire, Mick Jagger 1970 l'abbiamo sentito ben più confuso in altre interviste. Qui è molto lucido, però è decisamente puntuto. Ecco, perché il povero intervistatore è alle corde. Gli chiede, insomma, che qual è il commento da fare appena arrivato in Svezia. Yes, I'd like to say. Sì, sì, c'è qualcosa che vorrei dire. I don't like the police and the customs. Non mi piace la polizia di questo paese, non mi piacciono le dogane. E naturalmente, perché? Well, because they put dogs all around our bags to search for things. Perché ci hanno circondato di cani antidroga ovviamente, ed era ovvio che they were searching for something, quindi stavano cercando qualcosa. E dice, it's not true, we use drugs. No, certo che no, nel 1970 non sapevano neanche che cos'era la droga. E qui dice proprio, e glielo dice in un modo anche abbastanza volgare, che tanto shit sappiamo tutti che cosa vuol dire. A quel punto l'intervistatore gli dice, beh, ma allora it is true that you hate pressmen. E lui lo prende in giro fino alla morte. Ma no, you are lovely, siete adorabili, proprio lo distrugge. E allora lui dice, no vabbè, ma everyone had the right to put stupid questions, quindi certo avete il diritto di fare domande stupide, come dire, quindi certo che le fate le domande stupide, è un vostro diritto. E il mio diritto è quello di darvi delle risposte stupide. And I have the right to give stupid answers to stupid questions. E allora il giornalista, che riprende un po' di coraggio, dice, vabbè, ma allora scusi, mi dica, what's a smart question? Smart naturalmente è intelligente, oltre a essere un famoso tipo di macchina, e quindi fammi un esempio, ti prego, che cos'è una smart question, una domanda intelligente? Gli dice, per una domanda intelligente, what socks are you wearing? What kind of socks do you like? Sempre serissimo. Che tipo di calze indossi in questo momento? Quali sono le calze che ti piacciono? E questo era Mick Jagger 1970. Mick Jagger ora è un uomo serissimo, molto profondo, soprattutto giovanissimo. Ecco cosa raccontava la CNN nel 2007. When I was a teenager, being a rock singer was a very fleeting thing. There wasn't really a career move. It was a sort of fun thing you did when you were a kid, which perhaps is the correct view. Do you wear your heart on your sleeve, do you think? To some extent, I think that all writing is autobiographical to some extent. Then, of course, the writer's task is to dress it up in other ways. But you've taken heat for some songs that you've written because everybody's trying to pin something, yeah. The backstory. Yeah, well, I think that's inevitable. If you're, I mean, that's always happened to writers, you know. And then some people say to me, but it doesn't give enough of his real feelings. And I like to write tongue-in-cheek songs too, you know. Rock music's not only about heartfelt, doomy emotions, it's, you know, about fun and sarcasm and double entendres and things. Eccolo qui il Mick Jagger versione oggi, insomma 2007, una intervista piuttosto recente. La sua voce è molto sexy, il suo tono molto pacato, molto riflessivo. Adesso Mick Jagger è così. Perché insomma inevitabilmente gli si chiede sempre degli inizi e lui ammette, well, when I was a teenager, quindi sapete che i teenager sono da 13 a 19, quindi da 13 a 19 anni, quindi quando ha iniziato lui, being a rock singer was a sort of a fleeting thing, cioè fare il dire di essere un cantante rock era una cosa così che andava un po' nell'aria, molto leggera, not really a career move, non era una scelta di lavoro. E poi lo fa parlare della sua carriera anche come autore delle canzoni. E qui lui appunto si mette il cappello del writer, gli piace proprio dire non songwriter ma writer, quindi lo scrittore, e dice all writing to some extent, in un certo senso, lo ripete due volte, is autobiographical. È in qualche modo autobiografico. Poi però aggiunge, it's the writer's task. Task è compito, quindi il compito dello scrittore è to dress it up in other ways, quindi di vestire questi dati autobiographical in other ways, in modo che non sia proprio ti racconto esattamente cosa mi è successo. Peraltro lui dà alla fine una descrizione secondo me fantastica di quello che è la musica, anche per come l'ha vissuta lui, come l'ha vissuta in questi 50 anni. Sì, perché a volte l'intervistatrice gli dice, insomma, sembra che non racconti tutta la verità o che... E lui dice, uff, ma è capita. Music is not just about heartfelt emotions. Non è soltanto proprio emozioni, hard, così come le hai provate, le devi descrivere fino in fondo. It's about having fun and sarcasm. Insomma, bisogna metterci anche qualcos'altro, anche perché probabilmente appunto lo hanno detto loro stessi, tutte le canzoni, molte canzoni non sono state scritte proprio in uno stato di lucidità, quindi oltre alle emotions ci sarà stato anche qualcos'altro. Vabbè, però grandi Rolling Stones, ce l'hanno fatta a superare i 50 anni di carriera, non lo fanno tutti e non lo fanno con la loro forma, appunto, soprattutto Mick Jagger è straordinario, quindi festeggiamo questo compleanno e concludiamo qui il nostro appuntamento con English 24, dobbiamo ricordarvi il nostro appuntamento in edicola, ringraziare Filippo Aureggi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.